Se rimaniamo insieme potremo anche volare, potremo attraversare questo mare. Se rimaniamo insieme nelle diversità, insieme scopriremo la nostra unicità. Se rimaniamo insieme saremo la continuità, se rimaniamo insieme sarà vera libertà. E per la vita che verrà, per la vita che verrà, tu non sarai mai sola. Se rimaniamo insieme, se ci diciamo tutto, se insieme seminiamo insieme, coglieremo il frutto. Se noi si resta insieme, sarà una meraviglia. Se rimaniamo insieme, saremo una famiglia. E per la vita che verrà, per la vita che verrà, tu non sarai mai sola. Sotto questo cielo, ma io non sarò mai solo. Sotto questo cielo. Se noi ci capiremo, se ci perdoneremo gli sbagli che faremo, noi rimarremo insieme se avremo volontà, se riusciremo insieme a darci libertà. E per la vita che verrà, per la vita che verrà, sotto questo cielo mai, non sarò mai solo mai. Sotto questo cielo. Wow, wow, wow, yeah. Sha, sha, sha, sha, sha, au. Sha, sha, sha, sha, sha, au. Per la vita che verrà. Che verrà, non sarai mai sola.